Come on, yeah, yeah. E intanto sono andati al bacino. Ehi, non sei tu, però! Io non posso, tu hai mai...